in primo piano. Oggi i giornali regalano tante notizie perché sono molto vari, ce ne sono davvero pochi che decidono di scegliere un'apertura uguale. E allora vediamo una carrellata delle varie scelte, cominciando da Sole 24 Ore. Scudo lungo su case e titoli, ci sono gli emendamenti alla finanziaria. E tra gli emendamenti della maggioranza alla finanziaria c'è la proroga della sanatoria sullo scudo fiscale, poi taglio IRAP per le PMI in perdita, dunque ci sono novità in discussione per quel che riguarda l'economia e ne parleremo. È una scelta simile per la stampa, tasse solo piccoli tagli, Berlusconi apre a Casini dal punto di vista politico. Il Corriere della Sera apre invece sulla strage in America, strage nella base americana, almeno 12 soldati morti, Obama, orribile violenza, abbiamo sentito in GR24. Le risposte di Berlusconi invece è l'apertura di Repubblica, che è la stessa apertura del giornale. Berlusconi risponde alle 10 domande, scrive però il giornale, così Repubblica è beffata. E allora partiamo proprio dalla politica e da questa vicenda. Qual è la vicenda? Beh, ormai è noto il fatto che è uscito oggi, esce il libro di Bruno Vespa nel quale Berlusconi risponde non in maniera 1, 2, 3, 4 alle famose 10 domande, ma insomma sono state riproposte in qualche modo da Bruno Vespa e Berlusconi ad alcune di queste domande risponde, tanto che Repubblica appunto mette le risposte di Berlusconi a pagina 2-3, ci sono le 10 domande riproposte, le risposte di Berlusconi, e c'è un articolo, un lungo articolo di Giuseppe D'Avanzo, le risposte di Berlusconi e le verità che mancano. C'è anche un editoriale di Ezio Mauro, il direttore di Repubblica, la responsabilità del potere, scrive Ezio Mauro in conclusione del suo lungo editoriale. Berlusconi, la ragione delle 10 domande per tutti questi mesi sta proprio qui, la responsabilità del potere. Berlusconi ha risposto, lo ha fatto in forma obliqua, evitando il confronto con Repubblica, in forma ambigua, facendosi riformulare le domande dal suo intervistatore notaio in un libro edito dalla casa editrice di sua proprietà. Un'operazione politica controllata e protetta, dunque. Il risultato, per Mauro, è una prudentissima navigazione al largo delle vere questioni, senza fatti, senza veri chiarimenti, senza circostanze che possano spiegare la verità ai cittadini. È come la denuncia di un limite, tanto che, scrive Mauro, alla fine rimane un'ultima inevitabile domanda. Signor Presidente, qual è la ragione che su queste vicende le impedisce di dire davvero la verità ai suoi concittadini? Come se fossimo in un paese normale, noi continueremo a chiederlo finché lo capiremo. Come detto, è anche l'apertura del giornale. Berlusconi risponde alle 10 domande, dal caso Noemi alla corsa al Quirinale, al suo stato di salute. Il premier affida Vespa la replica alla campagna di delegittimazione lanciata dal giornale di De Benedetti. C'è anche un'anticipazione vera e propria, vale a dire un capitolo del libro di Bruno Vespa, Donne di Cuori, in cui si ricostruisce quella serata, la serata in cui il 28 aprile Veronica Lario diffuse attraverso l'ANSA quelle dichiarazioni, per esempio sul ciarpame senza pudore, sulle possibili candidature delle donne alle europee. Bruno Vespa ricostruisce proprio i contatti tra Veronica Lario e i suoi collaboratori, il direttore dell'ANSA di allora, Gramaglia, il capo dei servizi della politica, capo del servizio politico, vale a dire Panizzi, insomma come è stata gestita tutta quella vicenda con i contatti, le risposte via mail e poi fino alla pubblicazione sull'ANSA del lancio d'agenzia, erano le 22:31 del 28 aprile 2009 e da lì insomma nacque un po' tutto quello che è successo fino ai giorni nostri. Sulla vicenda, tra l'altro, delle 10 domande sulla politica, in qualche modo segnalo anche un'intervista di un'intera pagina che Aldo Cazzullo fa sul Corriere della Sera a Don Verzé, il fondatore del San Raffaele, che un qualche giorno fa ha visto Berlusconi, e parla anche degli scandali estivi, come li chiama Cazzullo. E Don Verzè dice: certo che ne abbiamo parlato, mi ha assicurato Berlusconi che non ha fatto quello che dicono, e io gli credo, non l'ha fatto. Ho visto tante cose nella vita, ma mai una vergogna simile. Sono state enfatizzate supposizioni, voci, e se anche fossero verità dovremmo vergognarci e tenerle nel cuore. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Di peccati ne commettiamo tutti, eppure vedo molti peccatori tirare molte, troppe pietre, dice Don Verzè. Ma lei, insomma, Veronica Lario ha chiesto il divorzio. Conosco bene anche lei, non voglio giudicare. Berlusconi è un uomo, non un santo, anche se io in ogni uomo vedo la santità. E poi, insomma, tira in ballo i magistrati, Don Verzè. Ma che c'entrano i magistrati, dice Cazzullo. La giustizia in Italia sembra una spada di Damocle pendente sulla testa di chiunque. Purtroppo alcuni magistrati non hanno il senso della giustizia. Un dubbio per loro è sufficiente per giudicare. E giudicano. E poi in questa lunga intervista Don Verzè parla anche di Fidel Castro, che definisce un grand'uomo, prepotente ma così simpatico. Oppure Gheddafi, che ha incontrato, svela un inedito, ha incontrato quando era proibito, quando ci voleva il permesso della CIA, andai lì in Libia, poi saltò tutto, volevo portare San Raffaele in Libia, lui accettò, ma tutto si fermò quando Gheddafi fu ferito alle gambe in un attentato ordito da tribù ostili. Insomma, Don Verzè che parla un po' a tutto campo della politica attuale, ma anche della sua vita. La politica è anche molto incentrata sulla polemica, che l'ennesima polemica per la verità, che è partita dal Giornale nei confronti di Fini e la replica di Fini, che secondo Repubblica dice: se si tira troppo la corda poi si spezza. La prima reazione è furibonda, la solita storia, Berlusconi deve stare attento perché a tirare troppo la corda alla fine si spezza. Questa sarebbe stata la reazione di Fini all'ennesimo attacco di Feltri. Con ieri, sempre su Repubblica, si legge che Berlusconi ha detto: io sono amareggiato, non c'entro nulla. Dal caso Boffo in poi sono stato solo danneggiato, al punto che ho chiesto a mio fratello di vendere il quotidiano. E gli ho messo anche a disposizione una cordata guidata da Ermolli per fare questa operazione. Al che, secondo Repubblica, ci sarebbe la replica di Feltri: se non vado bene, l'editore ha a disposizione armi formidabili in mano. Può dire: è stato bello, breve, intenso, ma deve finire. Come dire, mi licenzi, insomma, se vuole. E poi, insomma, ieri è stato riportato alla ribalta un ex giocatore, Comunardo Nicolai. Per chi non è amante del calcio, era uno stopper, un difensore famoso del Cagliari, famoso anche passato alla storia perché spesso faceva autogol. Che è successo? Che la Fondazione Fare Futuro, vicina a Fini, ha detto: Vittorio Feltri è il Comunardo Nicolai del giornalismo, un difensore che segna a ripetizione solo nella propria porta. E oggi Vittorio Feltri replica: cari amici finiani, con Nicolai scudetto assicurato. Insomma, dice Feltri, Comunardo Nicolai segnò alcuni gol alla squadra nella quale giocava, fece vincere lo scudetto al Cagliari, registrò 3 presenze in nazionale, quindi se il Cagliari conquistò anche grazie a lui il campionato italiano, quantomeno porta fortuna, ciò di cui il presidente del Consiglio ha bisogno in questo momento. Mi auguro che la sfiga di Fare Futuro nella scelta delle metafore dedicate ai critici non malevoli di Gianfranco Fini non si estenda su di lui, che per prudenza dovrebbe cambiare difensori, non si sa mai. Occhio, precisa Feltri, non è una minaccia al presidente della Camera, ma un affettuoso consiglio. Insomma, il rapporto tra Feltri e Fini, o tra il giornale Fini, con ricadute anche, pare, con frizioni tra lo stesso Fini e Berlusconi, continua. La politica si anima anche per il rapporto che Berlusconi oggi cercherebbe di restaurare con Casini. Oggi Berlusconi vede Casini, è il titolo del Riformista, che Casini nel PDL. Ovviamente i Casini sono le frizioni che ci sarebbero, però il fatto che Casini sia scritto con la C maiuscola è perché Berlusconi, scrive il Riformista, starebbe cercando di riaprire all'UDC di Casini. Anche se Alessandro De Angelis sul Riformista scrive molto chiaramente: Berlusconi è furioso, esasperato, sulla giustizia non c'è accordo, tutte le diavolerie di Ghedini sono state rispedite al mittente da Fini, e Berlusconi pensa alle elezioni anticipate. Questa l'abbiamo sentita spesso in questi giorni, ma certo anche oggi il Foglio con Salvatore Merlo in prima pagina. Beh, è chiaro, salvacondotto o urne. Berlusconi è disposto perfino a rischiare la crisi di governo, scrive Merlo, azzardare nei rapporti con Gianfranco Fini la presidenza della Repubblica. Come primo punto dell'agenda del PDL e della maggioranza c'è porre la propria messa in sicurezza dal Tribunale di Milano. Il suo partito produrrà un documento formale vincolante che, oltre a certificare la ventennale persecuzione giudiziaria, impegnerà i parlamentari dirigenti tutti a sottoscrivere un disegno di legge esplicitamente formulato per i guai giudiziari del Premier. Sarebbe quel prendere o lasciare che Berlusconi vorrebbe. Un rifiuto non sarebbe accettato, scrive Merlo. C'è soltanto un modo nel quale potrei arrivare alla sentenza di Milano, fresco di legittimazione elettorale, ha detto Berlusconi in privato. Dunque, o state tutti con me, traduco io, oppure si va alle urne. C'è fermento anche nel PD, per la verità, che perde un altro pezzo. Si tratta di Massimo Caleraro, deputato ma anche imprenditore, simbolo del Nord-Est, che ha detto vado via dal PD di Bersani. Oggi fa un'intervista a Nicoletta Picchio sul Sole 24 Ore e dice: siamo tornati al passato, io me ne vado. Dopo Rutelli, dopo Cacciari, insomma anche Caleraro dice me ne vado dal PD. Non mi sembrava serio passare da un partito all'altro, vado nel gruppo misto. Quella di Bersani è una moderna socialdemocrazia, questo progetto è lontano dalla mia storia personale, dalla terra da cui provengo, il Nord-Est. E gli chiede Nicoletta Picchio: ma Bersani è andato dopo le primarie nel distretto di Prato? Appunto, la mia storia è diversa, non ho collegamenti con la tradizione tosco-emiliana del PC. Comunque, dice Caleraro, non lascio la politica e guarda al nuovo soggetto politico di Dell'A, insomma il centro, il nuovo centro a cui starebbe lavorando anche Rutelli. Beh, insomma, c'è molto di politica, appunto, dalle 10 domande al gran fermento che c'è. Proroga mirata per lo scudo, potrete leggere a pagina 5 del Sole 24 Ore. Di cosa si tratta? Beh, ci sono gli emendamenti, si discute la finanziaria e ci sono tanti emendamenti interessanti dal punto di vista dell'economia. È l'apertura del Sole 24 Ore in prima pagina, come detto, scudo lungo su case e titoli. La proposta del PDL, scrivono Dino Pesole e Marco Rogari, mini taglio dell'IRAP per le PMI scorporando le perdite dalla base imponibile, cedolare secca sugli affitti in versione graduale, aliquota agevolata per i risparmi al sud, fondi aggiuntivi per sicurezza e università. Queste sono le correzioni mirate su cui il governo e la maggioranza stanno lavorando per inserirle già la prossima settimana alle votazioni al Senato alla finanziaria. L'idea è anche quella di prorogare lo scudo fiscale, idea sottoposta al Tesoro che la valuterà insieme a un altro suggerimento giunto dalla maggioranza, sempre sotto forma di emendamento: la creazione di 8 nuovi casinò, salvaguardando i 4 già attivi a Sanremo, Saint Vincent, Campione d'Italia e Venezia. Insomma, ci sono tutte le ipotesi della maggioranza. Torna l'IRAP, avete sentito anche il possibile mini taglio dell'IRAP, tanto che oggi Sergio Rizzo fa un meritorio articolo, secondo me, a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, dove si può leggere a pagina 2 attesi 4 miliardi dallo scudo e possibile un taglio all'IRAP. Che fa Sergio Rizzo? Fa 12 anni di promesse. Beh, è davvero interessante leggerlo. L'imposta rapina, come la definì facendo esplodere la piazza Silvio Berlusconi il 26 ottobre del 97, quando la tassa era ancora nella culla di Vincenzo Visco. Ebbene, Berlusconi era all'opposizione, definì così IRAP, imposta rapina, e poi 12 anni di promesse. Abrogheremo l'IRAP, questo in un libro, no, non in un libro, nel salotto di Bruno Vespa. Quella tassa farà una brutta fine, 8 maggio 2001. E poi ancora più avanti, l'IRAP è una tassa che vogliamo non ridurre, ma abolire al più presto, era il ministro della cultura Urbani, 27 maggio 2004. Ma prima ancora Berlusconi al presidente degli industriali di allora, Antonio D'Amato, che lo incalzava il 12 aprile 2003. La soppressione dell'IRAP è nel nostro programma, non c'è alcuna modifica. E ancora Domenico Siniscalco, quando sostituì Tremonti, Con la prossima finanziaria aboliremo l'IRAP. Dal 2006 la tassa non ci sarà più. Era il 19 marzo del 2005. Gli imprenditori di Confindustria riuniti a Bari si guardarono in faccia per un attimo increduli. Tremonti, la riduzione dell'IRAP va fatta subito, disse intervistato da Maria Latella. Più avanti, se vinciamo le elezioni faremo nei prossimi 5 anni una no IRAP area. Questo era poco prima delle elezioni del 2006, sempre Berlusconi. È una tassa assurda introdotta dalla sinistra, 30 novembre 2008. Il governo ha allo studio il taglio dell'IRAP fino alla soppressione, 22 ottobre 2009. E poi di nuovo, il taglio dell'IRAP quando finirà la crisi, 28 ottobre 2009. Beh, davvero un percorso molto lungo. Ma l'IRAP è sempre lì. Crisi, 8 parole per un inganno. Vi voglio anche segnalare un'intervista che Daniele Manca fa a Guido Rossi, il giurista padre dell'antitrust. Parla di economia a tutto tondo, a 360 gradi, distrugge quello che lui dice il mito del mercato. Oppure si pensi a un altro concetto sbagliato, il mercato è democrazia. E ancora altre parole, concetto molto in voga, too big to fail, vale a dire troppo grandi per fallire, anche questo sbagliatissimo, dice Guido Rossi. E poi attacca i manager, dice lo scetticismo è d'obbligo, non mi pare che i manager stiano soffrendo per carenza di bonus in questi mesi, anzi è ricominciata la gran distribuzione di denaro a questi signori. Ma un'altra parola magica, sì, manager, dice Rossi, il versante se permette peggiore. Come definire se non una presa in giro la storia del creare valore per gli azionisti? E poi Guido Rossi punta sull'etica, l'etica degli affari e invita a rilanciare con una autorità sovranazionale mondiale di cui ne parlai già all'ONU nel 2000, ma l'idea non è nuova. Si farà, mi permetta di essere pessimista, dice Guido Rossi in questa lunga intervista. Beh, trovate poi molto di cronaca varia. Certo, questa strage nella base militare che abbiamo sentito anche in GR24, 12 morti a Fort Hood, l'omicida è un maggiore, l'assassino ha un nome musulmano. Questo, insomma, è un dato di fatto, vorrà dire qualcosa, non vorrà dire qualcosa, ma ci punta sia il Corriere sia Repubblica. Ovviamente si dava anche per morto, in realtà non è morto, come abbiamo sentito è stato ferito a sua volta, ma è vivo. Si cercherà di capire quali sono le ragioni di questo gesto di un militare americano che appunto ha aperto il fuoco contro altri militari, almeno 12 sono morti. Cocaina, emergenza Italia, questo è il titolo di apertura del Messaggero, ma anche del Fatto Quotidiano. L'Italia che tira coca primi in Europa, operai e professionisti un consumo di massa. Come noi nessuno, scrive il Fatto. Nello stivale si consuma il maggior quantitativo di polvere bianca del continente, 100 tonnellate l'anno per un giro d'affari di 30 miliardi di euro. E si fa anche finta che non sia un problema. Questo per quel che riguarda l'emergenza cocaina. Trovate anche le polemiche dal punto di vista della giustizia, sia sulla nuova verità di Ciancimino Junior, che ha detto mafia, la verità di Ciancimino Junior, così Provenzano tradì Riina, cioè sarebbe stato Provenzano a dire dove si trovava Riina, tanto che Attilio Bolzoni dice ecco che cos'è Provenzano, sostanzialmente cosa ha fatto Provenzano, lo sbirro. Il boss che conosceva fin da bambino e aveva voluto la morte di Falcone. Si è fatto sbirro il mafioso che per 43 anni era stato un fantasma. Sbirro. E come altrimenti avrebbe potuto fare il latitante per più di 4 decenni? Sbirro. Con documenti falsi andava in Francia per farsi operare alla prostata. Con la tranquillità di un pensionato in gita andava a Roma per incontrare Vito Ciancimino. Sbirro, come tutti i grandi padrini nella storia di Cosa Nostra. E beh, anche questo ripetere la parola più infame per un mafioso, sbirro, in questo articolo di Attilio Bolzoni è certo molto efficace, anche se c'è da dire, come abbiamo sentito anche nel GR, che il capitano ultimo, colui che fece arrestare, che arrestò Riina, ha detto Ciancimino è un servo di Riina, è falso che Riina sia stato arrestato in seguito alle dichiarazioni di Provenzano ed è grave che ci sia qualcuno nelle istituzioni che legittimi questo servo di Riina. Chissà com'è la vicenda. Intanto segnalo in chiusura Manifesto e Unità, che hanno una apertura simile, le mani sull'acqua, questa è l'unità, il manifesto Acqua Marcia, è il progetto, proposta di legge voluta dal centrodestra di anche privatizzare, aprire ai privati la gestione dell'acqua, le mani sull'acqua per l'unità, Acqua Marcia per il manifesto, ci sarebbe un grande attacco con il business dell'acqua privata, una torta da 8 miliardi, scrive l'unità, è l'apertura dei due quotidiani orientati a sinistra. Mi fermo qui.